E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata e torniamo a darvi il buon anno, naturalmente in maniera ironica anche in questo 3 gennaio 2013. E purtroppo infatti, digeriti il cenone e il pranzo di Capodanno, le novità che questo mese di gennaio ci porta continuano ad essere piuttosto difficili da digerire per le famiglie italiane e per le loro finanze. Non ci bastavano gli aumenti in arrivo di cui abbiamo raccontato ieri per gli automobilisti e di cui appunto abbiamo dato ampio resoconto appunto nella puntata di Salva Danaio di ieri. Con l'arrivo del 2013 debutta infatti la nuova tassazione sui rifiuti, la nuova TARES, tassa rifiuti e servizi, prenderà il posto delle due sigle alle quali gli italiani si erano ormai abituati. Nella maggioranza dei casi i comuni applicavano la TARSU, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e in misura minore la TIA, la tariffa di igiene ambientale. Stando ai primi calcoli effettuati, il passaggio alla nuova imposta non sarà affatto indolore per i cittadini, arrivando a pesare, si prevede, anche 80 euro in più a famiglia, con aumenti di circa il 30% per i nuclei più numerosi. Oggi a Salva Danaio spieghiamo il funzionamento della nuova tassazione, si pagherà a giugno, e rispondiamo alle vostre domande. Andremo a vedere anche cosa succede nella lunga controversia, facciamo anche un punto su quella vicenda lì, che ha visto negli ultimi anni protagonista le ormai vecchie TIA e TARSU, la vicenda dell'applicazione sull'IVA e la sua restituzione. 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire in diretta, interagire con noi, oppure scriveteci al 349 238 6666. Scriveteci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Andate, se volete, ad interagire anche sui social network, dove siamo presenti: salvadanaio-radio24, Twitter su @salvadanaio24. Allora, con l'arrivo del 2013 cambia la tassazione dei rifiuti, arriva la TARES, lo sapevate, sapete come funzionerà e quanto si pagherà a seconda chiaramente della proprietà immobiliare, della vostra proprietà immobiliare. I nostri ospiti di questa mattina: torna a Salva Danaio, con nostro grande piacere, Nicola Forte, consulente tributario ed esperto per il Sole 24 Ore. Forte, buongiorno e buon anno. Buongiorno Deborah, buon anno a tutti i radioascoltatori. E poi, per farci la dolorosa quantificazione del nuovo salasso, con noi per qualche minuto Samir Traini, economista di Ref Ricerche. Dottor Traini, buongiorno e buon anno naturalmente anche a lei. Buongiorno e buon anno a tutti. E poi ci collegheremo con l'avvocato Carmelo Calì, legale di Confconsumatori, che ci farà appunto il punto della situazione sulla vicenda che vi citavo prima nel nostro lancio, cioè l'applicazione dell'IVA sulla TIA, la tariffa di igiene ambientale, che fine ha fatto tutta quella montagna di richieste di restituzione che molti contribuenti appunto avevano inoltrato ai rispettivi alle rispettive appunto società di erogazione di questi servizi, che naturalmente le avevano tutte quante rispedite al mittente, ma in ogni caso lo scorso anno, come ricorderete, si era creata una grande attenzione su questa vicenda, e oggi rifaremo il punto della situazione. Prima di tutto questo però, come sempre, è tempo di raccontarvi la seduta di borsa. Ieri abbiamo avuto una giornata eccezionale sui mercati finanziari internazionali, dall'Asia ieri mattina, poi all'Europa e infine anche a Wall Street, tutto merito naturalmente degli Stati Uniti. Ne abbiamo raccontato in ogni dettaglio come l'amministrazione americana sia arrivata appunto a promulgare la legge che evita il fiscal cliff, il baratro fiscale. Peraltro proprio questa mattina il presidente americano dalle Hawaii, Obama, ha promulgato la legge firmando appunto il testo proprio della sua località di vacanza, e oggi il mercato naturalmente corre ad incassare un po' dei guadagni ottenuti ieri. Abbiamo dei ribassi che sono comunque abbastanza contenuti se rapportati proprio ai rialzi della seduta di ieri. Londra addirittura si sta portando sulla parità, è meno 0,09%, meno 0,6 Parigi, Francoforte meno 0,31, la Spagna perde più di un punto, Milano meno 0,48%. I temi sotto i riflettori oggi a Piazza Affari: in pregiro più 2,44%, il gruppo ha ottenuto a Panama in joint venture con il gruppo Salini una maxi commessa per lo sfruttamento di un'importante miniera di rame, un contratto complessivo che vale 560 milioni di dollari. Oggi tornano gli acquisti sul titolo. Lottomatica più 1,82% grazie ai dati, che non è che poi ci piacciano più di tanto, ma ne dobbiamo dare conto, di aumento della raccolta del mercato italiano dei giochi, e questo naturalmente porta anche a forti acquisti sul titolo. STM, oggi va bene tutta la tecnologia europea, anche STM ne beneficia, ST Microelectronics in rialzo di un punto percentuale. In ribasso chi abbiamo invece? I titoli che ieri hanno corso di più: A2A, la Multiutility Lombarda, meno 1,75%, ieri ha guadagnato quasi 6 punti, poi Popolare dell'Emilia Romagna meno 1,44%, Saipem meno 1,37%, dopo i dati sulle immatricolazioni auto di ieri sera, ancora una batosta per il mercato italiano, per Fiat abbiamo un nuovo calo dell'1,18%, poi ribassi di circa un punto anche per Enel, per la Popolare di Milano e per Ansaldo. Euro su dollaro a 1,31,06, mentre per quello che riguarda il differenziale fra Italia-Germania sul titolo decennale, quindi la differenza fra BTP e Bund, lo spread vale sui 286 punti base, un pochino in rialzo rispetto alla chiusura di ieri sera a 283. Questo è il quadro di borsa oggi. Noi però andiamo ad affrontare un tema che preoccuperà un po' le finanze delle famiglie italiane nei prossimi mesi, e parliamo della nuova tassazione sui rifiuti. Sono passati pochi giorni dall'inizio del 2013, ma per il momento tra le notizie in arrivo è molto difficile trovare qualcosa per cui valga davvero la pena di augurarsi un buon anno, almeno per quanto riguarda il nostro salvadanaio di casa. Con il 1 gennaio sono scattati diversi aumenti, dalle multe alle autostrade, dai francobolli al canone RAI. E non si può certo dimenticare che con l'anno nuovo arriverà anche una tripletta di nuove tasse, con le quali, archiviata momentaneamente la pratica IMU, bisognerà iniziare a fare nuovi calcoli. A essere colpite, stavolta, saranno le case di proprietà all'estero con l'IVIE, imposta sul valore degli immobili situati all'estero, che sarà pari al 7,6 per mille del valore dell'immobile. Nel mirino anche le transazioni finanziarie. Arriva infatti la discussa Tobin Tax sui trasferimenti di azioni e titoli partecipativi. E se i primi due ambiti di tassazione possono ritenersi riservati a una ristretta elite, di certo non si può dire lo stesso del terzo. Esordisce infatti anche la TARES, nuova imposta sui rifiuti che va a sostituire le vecchie TARSU e TIA. Su quest'ultima pesano ancora, tra l'altro, le controversie sull'errata applicazione dell'IVA, per la quale molti stanno richiedendo un rimborso. La nuova TARES è in vigore dal 1 gennaio, ma si potrà pagare in un'unica quota a giugno e, in caso di rate, la prima non dovrà essere precedente ad aprile 2013. Le quote dovranno garantire ai sindaci la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma anche l'erogazione di altri servizi, dalla polizia locale all'anagrafe, dall'illuminazione pubblica alla manutenzione del verde, al rifacimento del manto stradale. E non stupisce quindi che le previsioni sugli oneri che andranno ad aggiungersi al bilancio familiare non siano certo rosee. Si parla di 80 euro in più a famiglia, con aumenti del 30% rispetto alla precedente tassazione nei nuclei più numerosi. 800 24 0024 è il numero verde per i vostri interventi in diretta e le vostre domande. Ce ne erano già arrivate diverse negli ultimi giorni dell'anno, le avevamo raccolte, molte sollecitazioni da parte di molti ascoltatori fedeli alla nostra trasmissione, che avevano appunto ci avevano sollecitato nell'affrontare questo argomento. Allora, 80 euro a famiglia in media in più, ma chiaramente questa cifra varierà in relazione alla composizione del nucleo familiare. E allora Samir Traini, economista di Ref Ricerca, ancora buongiorno, come siete arrivati a fare questa quantificazione e perché proprio per le famiglie più numerose l'onere sarà più pesante? Sì, noi non abbiamo fatto altro che mettere a confronto i livelli tributari dei comuni a TARSU rispetto a quelli a TIA. Nel servizio si diceva verranno archiviate le TARSU e le TIA, in effetti è vero, ma nella sostanza ci troveremo in una situazione in cui tutti i comuni a TARSU dovranno passare sostanzialmente ai criteri di determinazione delle aliquote della TIA. Questo perché? Perché il decreto che ha istituito la TARES imponeva al Ministero di emanare un regolamento attuativo che però entro l'ottobre 2012, che però non è stato emanato. In mancanza di questo regolamento vale quello della vecchia TIA, che è datato 1999. Ora, noi per stimare appunto l'impatto che si avrà sui comuni a tasso, quindi nel passaggio alla nuova TARES, siamo andati a vedere cosa hanno effettivamente fatto i comuni che oggi sono a TIA. Che fino Tra l'altro, i comuni a Tarso erano maggiori rispetto di quelli a TIA. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ricordo solamente che entro il gennaio del 2008 tutti i comuni italiani sarebbero dovuti passare a TIA, ma tra diverse vicende normative e confusioni regolamentari solo 1340 comuni ad oggi sono a TIA, quindi su un totale di 8000 comuni parliamo appunto di appena il 19% dei comuni italiani che sono a TIA, per una popolazione di circa un terzo, quindi su 60 milioni di abitanti solo 20 milioni oggi a TIA. E per questa, diciamo, per quelli che ad oggi sono a TIA l'impatto è molto più limitato, nel senso che l'impatto si limiterà solamente al corrispettivo che andrà a coprire i servizi indivisibili, diciamo i famosi 30-40 centesimi di euro al metro quadro, quindi parliamo per una famiglia che abita in un appartamento di 100 metri quadri di 30-40 euro all'anno. Tra l'altro questo aumento di 30 centesimi è l'importo di base al metro quadrato della maggiorazione locale. I comuni possono anche decidere di aumentare fino a 40 centesimi, fino se a non 40 ricordo male. Centesimi. Sì. Assolutamente sì. Mentre l'impatto più diciamo più importante da capire è quello per i comuni a tasso, che come ha detto lei giustamente riguarderà la maggioranza della popolazione italiana. Ora, l'impatto sarà maggiore appunto per le famiglie con un nucleo con un numero di componenti più elevato, perché la vecchia TIA, il regolamento della vecchia TIA, considerava non solo i metri quadri occupati, ma anche il numero appunto dei componenti. Quindi sostanzialmente ci sarà una progressività nella definizione di queste aliquote che farà sì che in base alle nostre stime i nuclei familiari composti da un single potrebbero addirittura avere dei benefici molto limitati, ma potrebbero avere dei benefici. La ringrazio per questa buona notizia del tutto personale. Mentre ahimè per all'aumentare appunto del numero dei componenti la spesa tenderà a crescere, e noi abbiamo stimato che l'impatto per quanto riguarda solo la quota rifiuti, quindi solo quota rifiuti, per le famiglie di 5 componenti e più può essere superiore al 30%. Quindi è evidente che sommando addirittura anche la componente di cui abbiamo detto prima, dei servizi indivisibili, l'aumento va addirittura sopra il 30%, può arrivare anche al 40% per le famiglie più numerose. E quindi è evidente che questo potrebbe andare a pesare in maniera significativa sul potere d'acquisto delle famiglie, come se già tanti altri sacrifici non ci fossero stati richiesti. Detto questo, Traini, poi la lasciamo perché so che appunto aveva degli impegni, ci poteva dare solo qualche minuto, tanto per precisare anche le modalità con cui si versa questa tassa, la nuova TARES, ma questo è un ragionamento che possiamo fare anche per le due modalità che già conoscevamo, quindi Tarso e TIA. C'è un ascoltatore che non faremo intervenire perché ne abbiamo altre. Anzi, c'è Antonio da Roma, eccolo qua, è proprio lui quello a cui mi riferivo, è Marco Lombardo, il mio assistente, lo ha pescato al volo. Antonio, la faccio intervenire così chiariamo questo aspetto appunto col dottor Traini. Antonio, buongiorno, buon anno. Buongiorno, buongiorno anche a lei, buon anno. Senta, io mi chiedevo se con questa nuova TARES saranno previste, presenti o magari anche incentivate riduzioni della tariffa per tutte quelle utenze sia domestiche che non domestiche che faranno una forma di prevenzione di riduzione dei rifiuti. Allora Antonio, ecco perché ho voluto la sua domanda, perché se io non ho capito male le modalità con cui questo balzello viene strutturato, ma esattamente come funzionava anche per gli altri precedenti e tuttora esistenti, Traini, non è che noi paghiamo la tassa sui rifiuti sulla base di quanti ne produciamo, è comunque un balzello che viene conteggiato sulla base di un consumo presunto, di una produzione presunta di rifiuti, no? Sulla base della dimensione dell'abitazione o dell'impresa e delle persone che ci stanno dentro. Assolutamente sì, In effetti ad oggi la gran parte dei comuni attiva già adotta dei coefficienti presuntivi di producibilità dei rifiuti, quindi sostanzialmente il limite evidente di questa impostazione, lo si sapeva, è che non si ha una misurazione puntuale della produzione di rifiuti. Ciò non toglie che però nel decreto di istituzione della TARES si prevede comunque delle riduzioni, in questo caso della parte variabile della tariffa, perché è bene precisare, ci sarà una parte fissa e una parte variabile per quanto riguarda la copertura dei costi dei rifiuti. Il decreto prevede comunque un certo tipo di scontistica agevolazioni, in particolare per chi agevolerà la raccolta differenziata, certo. E per chi farà autocompostaggio, quindi per chi sostanzialmente farà suddivisione della componente organica del rifiuto. Per cui Antonio dovrà, a parte che abita a Roma, appunto verificare quali sono le abitudini di questa città. Regolamenti si possono, nei regolamenti comunali dovranno essere previste queste agevolazioni scontistiche. Quello che mi preme sottolineare è che quasi sempre le agevolazioni scontistiche si attivano su richiesta del, Del soggetto. Non si è mai che siano automatiche. Non è automatico, assolutamente. Quindi invito, come dire, i telespettatori a verificare nei regolamenti comunali, che devono essere pubblicati sul sito internet del proprio comune, tutte le casistiche di agevolazioni, che non vale solo, diciamo, per le famiglie ma anche per le utenze non domestiche. Mm-hmm. Traini, io la ringrazio molto per essere intervenuto, la ringrazio. Grazie soprattutto anche per la chiarezza con cui ci ha spiegato questi concetti. Allora torneremo sicuramente a sentirla, magari così approssimandoci al mese di aprile, quando appunto comincerà ad avvicinarsi sempre di più la scadenza del primo pagamento appunto della TARES. Buona giornata e buon anno, grazie. Buona a presto. Buona giornata e buon anno a tutti, grazie. Nicola Forte, siamo a noi, buongiorno ancora. Buongiorno. Allora, il nuovo tributo sui rifiuti, sui servizi pubblici indivisibili. Intanto diamo appunto conto ai nostri ascoltatori proprio delle scadenze. Il nuovo tributo è già in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, ma leggevo anche il commento di Gianni Trovati sulle Sole 24 Ore. Non si pagherà prima di aprile, perché naturalmente, come dire, il governo è stato anche abbastanza lungimirante nel fare questa scelta. Si è detto per evitare il debutto di una nuova tassa 3 settimane dalle elezioni, la legge di stabilità ha rimandato ad aprile la prima rata della TARES. Allora, intanto, cosa possono fare i contribuenti? Quando e come possono pagarla? Perché quella la facoltà di fare il pagamento a giugno è appunto una facoltà, si può anche rateizzare l'importo, no? Sì, diciamo che sotto questo profilo c'è un po' di confusione, nel senso che inizialmente, facendo un minimo di storia, si prevedeva la prima rata a gennaio, poi i motivi appunto ricordati c'è stato questo slittamento ad aprile, e ricordo che, attenzione, lo slittamento ad aprile è solo per il primo anno, quindi solo per il 2013, quindi quando saremo a regime probabilmente ci sarà la scadenza a gennaio. Ah, quindi dal prossimo anno presumibilmente si dovrà pagare insieme al canone RAI? Magari presumibilmente anche sì. L'emendamento perlomeno prevede uno slittamento ad aprile solo per la prima annualità, poi per carità tutto può essere ulteriormente modificato, ahimè siamo ampiamente abituati. E chiaramente la determinazione allora qui sono sorti due problemi: la determinazione sostanzialmente della base imponibile, della base di calcolo, perché la disposizione originaria prevedeva che l'imposta fosse commisurata alla cosiddetta superficie catastale, all'80% della superficie catastale, questo anche in base alla documentazione disponibile presso il catasto. Nel catasto ci dovrebbe essere la planimetria depositata. Tra l'altro faccio solo una parentesi forte, perché c'è un ascoltatore di Padova, Roberto, che era pronto ad intervenire, credo proprio su questo argomento. La nuova TARSU voleva chiedere: si paga per superficie dell'immobile o per numero occupanti della casa? Allora riprendo il discorso, nel senso che ci si è resi conto, dopo che la norma ormai era stata scritta da quasi un anno, e che non c'è dialogo ancora tra i comuni e l'agenzia del territorio, e quindi in buona sostanza non si ha la possibilità di quantificare questa superficie catastale. Allora, il che è folle, perché voglio dire, già i comuni hanno questi dati, perché se danno la misura delle aliquote per il conteggio dell'IMU, teoricamente questi dati dovrebbero averli. Beh, però l'IMU, attenzione, sui vani, cioè, o meglio, perlomeno l'IMU è legata alle rendite, e le rendite sono legate, sono quantificate in relazione ai vani catastali, non alla superficie catastale. Sì, però vabbè, qui abbiamo una situazione un po' a macchia di leopardo, nel senso che ci potrebbero essere appunto un fascicolo catastale in ordine con la planimetria, e quindi si è in grado di determinare l'esatta superficie. Vabbè, sono le follie solo nostre. Comunque, detto questo, i comuni questi dati superato, non ce li hanno. Superato, perché si è detto, emendamento, si calcolerà provvisoriamente sulla base della superficie calpestabile, cioè la stessa superficie sostanzialmente che funziona da parametro, uno dei parametri, ai fini della vecchia TARSU o della tariffa sostanzialmente. Mm. Chiaramente come, visto che il regolamento appunto non è stato approvato, facendo riferimento al cosiddetto, chiamiamolo, metodo normalizzato, cioè sostanzialmente secondo criteri che abbiamo poc'anzi ricordato, che vengono utilizzati per quantificare la TIA e quindi anche il nucleo familiare sostanzialmente. E però i primi versamenti saranno versamenti ovviamente in acconto, poi dovremo attendere i regolamenti che chiariranno meglio le idee per quanto riguarda appunto la quantificazione del saldo. Che tempi hanno i comuni per diramare, preparare, predisporre questi regolamenti, così da darci un'idea chiara di quanto dovremo spendere per tutto l'anno per i rifiuti che produciamo? Allora, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione del comune. Ora, se non ricordo male, la vicenda l'abbiamo avuto anche ai fini dell'IMU, e perlomeno quest'anno, l'anno passato, la scadenza è stata, se non ricordo male, differita poi successivamente ad ottobre del 2012. Quindi è una vicenda che, ahimè, è dinamica, dovremo seguire, perché se non ricordo male il termine nell'ottobre fu un termine prorogato, perché normalmente l'approvazione del bilancio preventivo avviene prima. Mm-hmm. Quindi anche qui, come l'IMU, dovremo seguire con attenzione queste vicende. Allora, speriamo intanto di aver accontentato Roberto da Padova, che con questa domanda era pronta ad intervenire, poi naturalmente ha chiuso la telefonata perché gliel'ho anticipata io. Andrei a sentire Daniele da Roma, così progressivamente con l'aiuto degli ascoltatori sciogliamo tutti i dubbi su questa nuova imposta. Tra l'altro poi vorrei anche capire bene come è composta questa nuova tariffa, perché appunto, come ci diceva prima anche Traini, ci sono due quote che devono essere stabilite, e poi lo spiegheremo bene. Daniele da Roma, buongiorno. Buongiorno e buon anno. Altrettanto, Daniele, grazie. Senta, io volevo fare una domanda, ma per le case non locate, probabilmente da quello che ho capito ci sarà una parte che si deve pagare, forse una parte no. Sì, Daniele, la ringrazio perché questa è una domanda che ci ha fatto anche un ascoltatore, che ben prima di Natale ci aveva chiesto aiuto sulla TARES e ci aveva detto: per cortesia fate una trasmissione. Adesso naturalmente il foglio non me lo ritrovo, ma lo vado a ripescare anche abbastanza rapidamente. Il tema è proprio questo, per le case, perché se non ho capito male, Nicola Forte, praticamente la TARES la pagano i residenti nell'abitazione, giusto? A prescindere dal fatto che siano proprietari o meno. Esattamente, gli utilizzatori dell'immobile. Per cui, se una casa è vuota, il proprietario deve pagare? Allora, in teoria in quella casa non si producono rifiuti, ma ecco, ha aperto allora, un po' di polvere. Certo, dobbiamo andare all'articolo 14, adesso lo decodifico io, comma 15. In bocca al lupo. Ahimè, della legge di riferimento, dove si dice che il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. Mm. Chiaramente, quindi decodifichiamo, cosa vuol dire? Quindi vuol dire che se quello è, ad esempio, l'immobile che ho nella località dove normalmente vado in vacanza, quindi è un uso stagionale, ovviamente non ho la residenza presso per quell'immobile, perché se sono residente, quindi sostanzialmente dichiaro anche di abitarci, non posso dire che l'uso è stagionale. Mm. Se io sono residente a Roma, dico che la mia abitazione principale è Roma, quindi già pago la TARES come abitazione principale, non avendo il dono dell'ubiquità, riesco facilmente a dimostrare che quell'immobile è utilizzato nella stagione estiva e quindi devo andare a vedere il regolamento del comune, devo verificare se il comune ha deliberato la riduzione e, come poc'anzi abbiamo ricordato, la riduzione non è automatica, devo fare domande e sotto questo profilo potrò godere, se deliberata, di questa agevolazione, se ci fosse. A qualcuno era sfuggita appunto questa novità, cioè quanto prevede la legge di stabilità che ha introdotto la TARES, la nuova tassa appunto sui rifiuti, che sostituisce gli attuali prelievi, tassa o tariffe, e aggiunge una maggiorazione per pagare l'illuminazione pubblica. Tra l'altro, Nicola Forte, per la verità, noi stiamo parlando dell'introduzione della TARES con la legge di stabilità, che per la verità però era già prevista dalle misure sul federalismo fiscale precedenti? Ma in realtà sì, era il cosiddetto decreto salva Italia, quindi il primo decreto del governo Monti. Perché poi si parla di TARES, perché si collega la TARES alla legge di stabilità? Perché via via sono stati apportate alcune modifiche, se non ricordo male, una di queste proprio all'interno della legge di stabilità, a proposito del differimento della prima rata ad aprile con un emendamento proprio dell'ultimo minuto, e quindi la colleghiamo alla legge di stabilità, anche perché poi la legge di stabilità entra in vigore dal 1 gennaio 2013, la TARES entra in vigore dal 1 gennaio 2013, quindi facciamo questo collegamento sostanzialmente. Buongiorno a Carmelo Calì, legale della Confconsumatori, buongiorno e buon anno, avvocato. Buongiorno a voi e agli ascoltatori e auguri. Grazie. Allora, le chiedo ancora un minuto di pazienza perché abbiamo alcuni ascoltatori da accontentare, poi andremo con lei a ricordare come è finita la famosa vicenda, quella legata alla restituzione dell'IVA applicata alla TIA, alla tariffa di igiene ambientale, un tema appunto che aveva sollevato la nostra attenzione per tantissime puntate lo scorso anno. Questo prelievo appunto era stato dichiarato illegittimo da una serie di pronunce, per cui molti contribuenti, anche su suggerimento delle associazioni dei consumatori, erano stati invitati a rivolgersi alla propria società di smaltimento chiedendone appunto la restituzione, e naturalmente i gestori, avendo versato l'IVA allo Stato, non la volevano restituire, per cui si erano scatenate numerose polemiche. Adesso ci chiediamo, anche alla luce dell'introduzione della TARES, a che punto è questa vicenda del tutto irrisolta, e soprattutto, anzi, avvocato Calì, glielo chiedo subito, sulla TARES si versa anche l'IVA? No, non dovrebbe versarsi l'IVA. Ecco, speriamo almeno di non dover richiedere anche la restituzione appunto per l'applicazione su questa. Andiamo ad altre domande, poi vengo a lei, avvocato Calì. Allora, Enzo da Reggio Emilia, che aspetta da un po'. Enzo, buongiorno e buon anno. Buongiorno, buon anno a tutti voi. Ci dica. Dunque, volevo chiedere come funziona e come funzionerà per le aziende, visto che ho visto che negli ultimi 3 anni, ad esempio, il settore ristoranti ha avuto un aumento intorno al 100%. Cosa è previsto? Visto che direi che di aumenti ce ne sono già stati abbastanza, ma se va avanti così, com'è possibile affrontare questa cosa? Credo che anche per le attività imprenditoriali la batosta sarà altrettanto significativa come quella che graverà sulle famiglie. Nicola Forte. Sì, diciamo che dalle stime che vengono effettuate sembra che una parte degli aumenti più significativi riguardi anche le attività commerciali. Tuttavia poi in concreto bisognerà vedere il regolamento, perché il regolamento per le attività commerciali dovrebbe distinguere le varie categorie, i vari settori, in considerazione anche della capacità, dell'attitudine di quell'attività a produrre rifiuti. E noi dobbiamo sempre partire dal presupposto che la novità più importante della TARES è che si deve assicurare l'integrale copertura del costo, quindi in linea di principio un aumento è prevedibile, però poi in concreto dovremo vedere quello che sarà stabilito dai singoli regolamenti. Abbiamo visto che provvisoriamente, non essendo stato emanato il regolamento entro il 31 ottobre 2012, faremo riferimento, o i comuni dovranno fare riferimento al cosiddetto criterio sistema normalizzato per la TIA, e questo provvisoriamente, poi a regime, ripeto, dovremo vedere i singoli i regolamenti, le singole previsioni, comune per comune. Intanto, sempre per tornare alla questione posta da Enzo da Reggio Emilia, gli leggo un passaggio dell'articolo pubblicato lunedì 24 dicembre dalla collega e amica Rosalba Reggio sulle Sole 24 Ore, che dice che gli incrementi delle tariffe delle imprese legati all'introduzione della TARES saranno differenziati chiaramente in base alla tipologia economica. Rosalba ha intervistato Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere, che ha spiegato che la logica europea alla base della nuova tariffa, secondo la quale paga di più chi produce più rifiuti, deve servire per passare da una mera gestione delle tariffe locali ad una che vede nelle tariffe una leva per politiche attive capaci di incentivare i comportamenti più virtuosi di cittadini ed imprese e penalizzare invece quelli più nocivi e meno sostenibili. E alla luce di questo principio, le attività che registreranno i maggiori rialzi, oltre il 50%, saranno proprio le attività a cui sono associati i più elevati coefficienti di producibilità presunta di rifiuti. E quindi, citava l'ascoltatore, i ristoranti, ci saranno anche questi, ma anche le attività di ortofrutta, bar, mense e quant'altro, ma anche scuole e case di cura, purtroppo, perché anche su questi, appunto, questi l'impatto, appunto, di questa novità si farà sentire. Allora, sentirei ancora un altro ascoltatore, Giancarla da Milano. Buona giornata, buon anno, Giancarla. Tanti auguri anche a lei, buon anno a tutti. Ci dica. Io volevo fare questa domanda. A Milano, per un box di 13 metri quadri, si pagano 46 euro di TARSU. Mm-hmm. Ovviamente il box non produce rifiuti, perché le gomme e le batterie non vengono asportate, assolutamente vanno portate in discarica. Volevo sapere se anche su questo ci sarà l'aumento. Allora, grazie Giancarla. Nicola Forte, vengo da lei. La TARES applicata al box si lega alla questione della pertinenza sull'abitazione o meno? Sì, può essere anche pertinenza, ma sempre l'articolo 14, che è la norma base, prevede come esclusione solo le aree scoperte pertinenziali, accessorie a civile abitazione, e le aree condominiali che non siano detenute occupate in via esclusiva. Quindi sostanzialmente il box continuerà ad essere un locale, perché sotto questo profilo la norma è molto ampia, dice il tributo si applica a chiunque possiede o occupi a qualsiasi titoli locali, e quindi ahimè continuerà la nostra ascoltatrice a pagare la nuova TARES anche sul box. Allora, sì, ci fermiamo adesso un attimo con la dinamica della TARES e faccio una parentesi con l'avvocato Calì per capire invece come è finita la famosa questione della restituzione dell'IVA per chi... nella teoria, secondo quanto anche ha stabilito appunto una serie di pronunce come quella della Corte di Cassazione, che aveva dichiarato illegittimo questa applicazione appunto dell'IVA sulla TIA, ne abbiamo parlato per almeno 2 anni, avvocato Calì, poi abbiamo anche, su invito di voi Associazione dei Consumatori, stimolato molti ascoltatori a chiedere la restituzione appunto dell'IVA applicata in maniera legittima secondo quanto appunto la Cassazione aveva stabilito. Ci racconta com'è finita quella vicenda? Diciamo che purtroppo la situazione ancora è in stallo, perché le posizioni restano quelle di sempre e quindi le società non intendono rimborsare le somme, i cittadini le reclamano e quindi né in questo periodo è intervenuto, come poteva essere anche auspicabile per cercare di dirimere la controversia, un provvedimento governativo o legislativo che potesse in qualche modo risolvere la questione nell'interesse di tutte le parti in causa, non soltanto dei consumatori. Ma purtroppo nulla di questo è avvenuto. A questo punto noi riteniamo che la strada che già in qualche modo è stata imboccata da alcuni consumatori debba essere perseguita da tutti, cioè quella giudiziaria. L'abbiamo detto sin dal momento che la ritenevamo l'ultima soluzione, ma a questo punto è l'unica soluzione e quindi non ci resta altro che praticarla. Naturalmente poi bisogna distinguere, perché ci sono quei consumatori che in questi anni hanno già provveduto a diffidare le società con delle raccomandate, hanno già raccolto le ricevute, quantificato quanto è l'importo da aver rimborsato, e quindi questi da subito potrebbero intraprendere un giudizio. Tra l'altro, quanti dei vostri, a parte la quantificazione di quante persone rivolgendosi alla vostra assistenza hanno fatto questa domanda, ma vi risulta che ci sia stato qualcuno accontentato, magari non attraverso una restituzione di quanto già in senso pregresso versato, ma magari ci sono state delle aziende che poi non l'hanno più applicata l'IVA? Sì, questo, ci sono situazioni varie, ci sono aziende che non l'hanno più applicata, ci sono aziende che hanno insistito nell'applicarla, e per esempio gli atti, in questo caso l'atto andava impugnato alle commissioni tributarie ed è stato annullato, quindi ci sono situazioni diverse. Quindi bisogna distinguere. Poi ci sono anche coloro che per esempio in questi anni non hanno fatto nulla, ecco, per questi non è pregiudicato nulla, nel senso che sono sempre in tempo a richiedere il rimborso, a fare una raccomandata. L'unico limite è quello se sono passati più di 10 anni, perché siamo di fronte a una ripetizione di indebite, quindi ad una prescrizione decennale, ma nella stragrande maggioranza dei casi non dovrebbero esserci ipotesi oltre decennale. Quindi... Però insomma, quello che rimane come fattore che lascia un forte amaro in bocca, ed era anche quell'aspetto, forse avvocato Calisse lo ricorderà, che sollevava Gianni Trovati quando il 4 ottobre dello scorso anno abbiamo riproposto la trasmissione su questo argomento. Non c'è proprio più nessuna certezza del diritto. La Cassazione dice quell'imposta, quella l'IVA appunto su una tariffa è legittima, dovete restituirla, non vale niente quello che dice la Cassazione, e questo è veramente scoraggiante. Certo, è scoraggiante, però come in tutti i casi io dico sempre che spesso la strada giudiziaria consente di passare da un virtuosismo spontaneo a un virtuosismo indotto. Allora, se le aziende non intendono essere virtuose spontaneamente, tempestiamole di, con le pronunce dei giudici, di raccomandate. Va bene, grazie avvocato Cali, io la lascio perché vorrei continuare sulla TARES, e poi naturalmente torneremo a disturbarla anche su altri argomenti più avanti. Ci sono delle novità tra l'altro sull'altro suo grande cavallo di battaglia, che è Winjet, e poi magari ne torneremo a parlare nelle prossime settimane. A giorni ci saranno novità. Ah bene, ce ne può. Che tipo di novità? Ce le può già anticipare? Diciamo che l'11 gennaio scade il termine entro il quale la Winjet deve depositare il proprio piano di concordato preventivo di continuità in base al termine che gli è stato concesso. Quindi secondo lei vale la pena fare una puntata prima dell'11 gennaio o subito dopo? Diciamo subito dopo, bisogna aspettare il deposito, e quindi per capire qual è la proposta che Winjet deve dare fuori. Benissimo, grazie avvocato, buona giornata e buon anno, a presto. Cioè, tu mi vuoi dire che in 4 anni abbiamo guadagnato solo questa miseria? Dai, va, non scherziamo, va, dai, per piacere. Non è poco. E poi, sa, tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Ma che difficoltà? La crisi, le tasse. Tasse? Non nominare mai più quella parola in mia presenza. Ma che tasse è tasse? Ma, signor Cetto, io qualche migliaio d'euro lo devo dichiarare. Ma non destare sospetti. Capito, no? Un po' di tasse dobbiamo pagare, mi creda. Tasse? Ma signore, ma che sta succedendo? Uno manca 4 anni e siete usciti tutti di testa. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Insomma, allora qua siamo un po' tutti drogati, quest'anno questa droga aumenterà, perché stiamo prendendo confidenza anche con altri tributi appunto che le famiglie italiane dovranno pagare. Non sono completamente nuovi, perché chiaramente le imposte, i tributi sui rifiuti li abbiamo sempre pagati, avevano un termine diverso a seconda del comune di residenza, era o la TARSU o la TIA. Adesso invece pagheremo la TARES, la pagheremo, è già in vigore questo nuovo tributo, ma si potrà pagare con una quota unica a giugno. Nicola Forte, allora, ho spiegato prima, forse ancora l'abbiamo spiegato in maniera un po' superficiale, che questo nuovo tributo è strutturato in due parti nella sostanza, no? C'è la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento, e quella il contribuente al comune di riferimento deve pagarla tutta, ma il comune maggiorerà la TARES con anche i costi relativi ai cosiddetti servizi indivisibili dei comuni. Ma quali sono questi servizi? E quindi sono sostanzialmente costi di illuminazione, rifacimento delle strade, costo per la sicurezza, la polizia municipale. Diciamo che la prima i contribuenti non pagavano questa parte in nessun modo? Perlomeno non se ne teneva conto nella TARSU e neppure nelle diversificazioni nel momento in cui alcuni comuni hanno adottato un numero, abbiamo visto, limitato la TIA. La TIA ha come effetto, abbiamo visto, che c'era un concorso integrale al costo per la gestione dei rifiuti, quindi non c'era questa addizionale, tant'è che uno degli elementi che concorrerà all'aumento è proprio l'addizionale. Per i comuni che ovviamente hanno già adottato la TIA l'aumento è più limitato, perché in effetti ho solo l'addizionale che si aggiunge, ma abbiamo visto che buona parte dei comuni non l'avevano adottata e quindi avremo un doppio aumento. Ci sarà sicuramente un importo, un aumento certo di 30 centesimi, un importo di base al metro quadrato della maggiorazione appunto locale per il finanziamento di questi servizi indivisibili, e come già dicevamo in apertura di programma possono essere aumentati a 40 centesimi al metro quadrato dai comuni. Andiamo ad altre domande degli ascoltatori, chi avevamo in sospeso da un po', Giacomo da Bari, che saluto e naturalmente gli auguro buon anno. Fino all'Epifania continuiamo ad augurare buon anno a tutti, anzi ci prendiamo tutto gennaio, va così ve lo rendiamo più digeribile. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, altrettanto, e grazie, complimenti sempre per la puntualità e precisione delle sue trasmissioni. Grazie Giacomo. Un chiarimento. Premesso che è abbastanza chiara la norma per quanto riguarda le case tenute a disposizione, quindi le seconde case, le case di villeggiatura o le case transitorie, altrettanto non chiaro, forse non l'ho capito io, è la norma per quanto riguarda le case regolarmente locate nei periodi di non locazione. Per esempio, io ho locato un appartamento ad un inquilino, l'inquilino va via, la casa sta vuota per 6 mesi, che succede? Ma se qualcuno mi può dare una risposta. No, aspetti Giacomo, mi faccia capire. Allora, lei ha affittato regolarmente questa abitazione, ma l'inquilino per esigenze sue è fuori 6 mesi, ma gli paga, le paga regolarmente? Va via. Si interrompe il contratto, la casa non l'ha riaffitto, quindi rimane vuota, senza affittata, ma non a mia disposizione, perché non è una casa che io ho a disposizione. Che succede in questo caso? Ma non ce l'ha più a disposizione per quale motivo? Se l'inquilino se n'è andato, teoricamente la devo, la devo riaffittare. Sì, certo, non è la però non è la casa, non è la casa intanto dove lei risiede. Esatto, non è la casa dove io risiedo e non è nemmeno una seconda casa a mia disposizione. È una casa che io tengo, non ci sono contratti, non c'è luce, non c'è acqua, non c'è niente, perché ovviamente... E non si producono rifiuti in questi 6 mesi, naturalmente. E non si producono rifiuti, naturalmente, perché la casa è vuota. L'ipotesi potrebbe essere, per esempio, anche una casa che viene ripitturata tra un inquilino e l'altro, per esempio, che sta 6 mesi vuota. Certo. Oppure, per difficoltà di trovare un inquilino, capita che le case possono stare vuote. In questo caso la normativa non mi è chiara. Grazie Giacomo. Nicola Forte, allora, sono sicuramente situazioni che saranno diffusissime sul territorio, certo. No? Perché non è che possiamo dare certezza dei periodi in cui le persone affittano abitazioni delle quali sono appunto proprietari. Allora, per Giacomo, facciamo un esempio anche abbastanza secco. No. Ammettendo certo. Che quest'anno appunto questa casa sia occupata solo per 6 mesi, chiaramente l'inquilino che ci sta per questi 6 mesi, l'importo di sua competenza deve pagarlo. Sì, perché la norma è molto chiara, poi la concreta applicazione ovviamente è un po' più difficile, però la norma dice: in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto solo dal possessore inteso come proprietario. Allora semplifichiamo, supponiamo che io do in affitto al 1 gennaio, concedo in locazione un immobile. Dopo 4 mesi mi accordo con l'affittuario e risolviamo consensualmente il contratto. Quindi lui dopo 4 mesi, anche 5 mesi è la stessa cosa, 5 mesi e mezzo. Sì, vabbè, abbiamo fatto un esempio secco. Perfetto, va via. A questo punto il tributo, lo dice chiaramente la norma, è dovuto esclusivamente dal soggetto proprietario, perché qui ho avuto un utilizzo temporaneo, la temporaneità è dovuta al fatto che il contratto di locazione si è risolto consensualmente, ma solo io proprietario è tenuto al pagamento del tributo su quell'immobile. Se quell'immobile continua a rimanere vuoto, non utilizzato, da questo punto di vista non ho possibilità, non sono esonerato dal pagamento del tributo. Abbiamo detto che il limite di questo sistema è che la tariffa è commisurata a quantità e qualità medie ordinarie, cioè non ho una misurazione effettiva. È ovvio che se quell'immobile non è utilizzato, di fatto c'è una, chiamiamola, minima capacità di produzione di rifiuti. Quindi pagherà un tributo al minimo? Beh, questo poi bisognerà sempre andare a vedere quanto è grande che, la casa? Perché potrebbe trattarsi, immaginiamo, certo, di una villa palladiana sulla quale paga chissà che cosa, che magari gli costa molto di più, anche se vuota, rispetto ad un'abitazione microscopica ma con sei persone dentro. Certo, però ecco, teniamo presente che sotto questo profilo la norma è chiara sugli utilizzi temporanei. Allora, speriamo di aver reso più chiare le idee al nostro ascoltatore. Andiamo ad Ada da Alessandria, che torna peraltro sullo stesso tema: ritiene che far pagare la tassa in base all'abitazione, non al numero delle persone, non sia corretto. Ada, buongiorno. Buongiorno signora, complimenti perché è simpaticissima. Grazie, meno male. Malgrado è vero. L'argomento. Posso confermarlo, sono molto simpatica. Le voglio anche bene. Ah, bene, grazie, grazie, mi fa molto piacere, anche noi gliene vogliamo, Ada, ci dica. Grazie, niente, guardi, io sono stata anche vice sindaco 15 anni fa e mi sono battuta in quei, allora era la 4 anni della legislatura, per modificare il fatto di, io, marito e moglie, anziani, ho 81 anni, io, mio marito ne ha 82, siamo maniaci della raccolta differenziata, e poi in campagna, abitando noi l'umido, eccetera, facciamo la fossa, poi la uso per concimare. Fertilizzare, sì, certo, concimare. Ecco, addirittura la mia nipotina di 3 anni e mezzo ha già la mania della differenziata, non la, questa lo metto nella pattugliera della casa. Benissimo, Ada. Allora io mi chiedo perché vicino a noi abbastanza c'è una famiglia con 5 ragazzi, giovani, insomma, di sporcaccioni, due genitori. Noi paghiamo una cifra, perché 3 piani, una casa vecchia, bla bla bla, loro... Ma chi è che produce la pattumiera? Le persone o l'immobile? O l'abitazione ferma. È una cosa assurda. Non hanno potuto dimodificare perché da Roma arrivano queste cose. Infatti. Ada, la ringrazio anche e soprattutto per la sua coscienza di consumatrice e naturalmente anche per come ha così instaurato queste buone prassi nel suo nucleo familiare, addirittura le tramanda ai suoi nipoti, e speriamo proprio per questo, anche in un futuro migliore e in un contesto più vivibile per tutti. Però insomma, molte famiglie fanno molta difficoltà a cambiare le proprie abitudini. Non è però questo il tema di questa mattina. Nicola Forte, qua bisogna ritornare un po' indietro. Molti ascoltatori si chiedono quale sia la ratio di stabilire appunto quanto si paga sui rifiuti in relazione all'abitazione e non in relazione a chi questi rifiuti li produce. Perché diciamo tendenzialmente, aumentando il numero di componenti del nucleo familiare, aumenta sia pure una capacità teorica a produrre rifiuti. Certo che forse l'intero sistema andrebbe ristrutturato e nella pratica sarebbe molto complicata. Pensiamo a un sistema ideale in cui si sia in grado di misurare i rifiuti effettivamente prodotti con appositi cassonetti, con tessera magnetica o altro. Ecco, un sistema di questo genere sarebbe da una parte forse più costoso, ma da un'altra parte sicuramente più equo e riuscirebbe a allocare o suddividere il tributo secondo una produzione di rifiuti effettiva. Però certo, siamo ancora molto lontani da un modello di questo genere. Chi scegliamo? Ci manca un minuto e mezzo e ho tempo solo per un ascoltatore. Chi è che stava aspettando da più tempo? Noi intanto ne stiamo perdendo. Allora vado subito ad Ivo da Pordenone. Buongiorno Ivo, magari se sono veloci riesco a rispondere ad entrambi. Ivo, buongiorno. Buongiorno, buon anno. Al dottor Forte, che conosco personalmente. Addirittura, bene, sì. Abbiamo fatto una carramba, ci dica. La problematica è questa: siamo una famiglia di 4 persone con 2 figlie, una di queste figlie studia a Milano, io ho preso un appartamento per questa persona, volevo solo sapere se per la parte soggettiva dell'imposta dovrò pagare 2 volte, sia qui che certo, sia se invece il suo nucleo familiare a Pordenone, visto che si è ridotto. Grazie Ivo. Nicola Forte, visto che Ivo è un suo amico, le dia qualche buona notizia. Lo saluto, forse ho capito dove ci siamo. Ci dica rapidamente che arriva la sigla. Allora, ho due immobili, quindi se la locazione dell'immobile non è temporanea, devo pagare anche su quell'immobile. È evidente che a questo punto qui si pone il problema dei componenti del nucleo. Esatto, quelli di familiare. Pordenone, quello originario, c'è ecco, una persona in meno. A mio modo di vedere, se dico che l'immobile affittato tiene conto anche degli effettivi occupanti, non posso considerare il nucleo familiare composto da tutti i soggetti, altrimenti un soggetto lo andrei a considerare due volte. Certo, allora ci documenteremo su questi aspetti, ce ne sarebbero tanti da affrontare, su questo tema ci ritorniamo presto. Grazie, a domani parleremo di saldi.